allenato a cercare soluzioni che sanno di un male in cuore che torna ore leggere che passavano più veloci prima come venieri che si muovono come ieri e ritorni scomodi e ritorni scomodi e tutto quanto sembra poi sparire come dietro un apparire misterioso di numeri informi soluzioni e tutto quanto sembra come ieri disperso in tondo io rimango perso nella mia stanza a pensarti profondo e se su te in fondo quel che cerco non c'è la soluzione sei te a tutti i miei perché e tutti quei mali che vorrei schiacciare per ore ritorna soltanto il tuo rumore il tuo nome come un vento e ritorna come un baleno tutto un tormento e sento ripenso tutte quelle soluzioni che vorrei dire soluzioni per tornare indietro cerco una nave che mi faccia partire per un mondo diverso disperso in questo mondo da solo mi sento perso e quando volevo solo un verso libero un verso da amare un verso in cui poter di nuovo sognare tornare a imparare a volare tornare a imparare quel mistero che sembra ora chiamare tutte le ore del cuore passate leggere tutte le ore passate come ieri in un tormento che sembra lontano il mondo vicino e mi appare come una frontiera indimitata in cui sognare ma sento comunque sempre il cielo di tutto quel rancore che vorrei dire e non so esprimere direi tutte le volte che sarei stato ok in questo mondo per bene in questo mondo per male e tutto quanto torna naturale pensare a quelle ore leggere del cuore il male ritorna il male ritorna il dolore ritorna e tutto quanto verso est profonda, il mare, questo nuovo verso il mare, questo nuovo verso il mare, questo nuovo verso il mare, e in fondo volevamo tornare insieme, volevamo tornare a parlare, e tutte quelle catene ci hanno legato, mormorato di quel passato, che sembra non dire più una soluzione, un mondo reale per poter sognare, e in fondo sperare nella quantità del cuore, la soluzione migliore. Sperare di tornare ad amare tutte quelle ore del cuore passate da sole in fondo volevo soltanto un verso, un nuovo verso libero per correre meno disperso in questo mondo tormento e diverso tutto quanto in fondo mi basta un verso mi basta un verso mi basta un verso mi basta un verso meno disperso mi basta un verso. Basta un verso. Mi basta un verso. Mi basta un verso.